Buona gente, ciao a tutti e ben ritornati a Radio Tassello direttamente dallo spazio Anteprima in Viale Lombardia 30. Ci scusiamo innanzitutto per tutti i disagi che vi abbiamo recato, perché la prima puntata ha avuto un po' di difficoltà ad uscire per un inconveniente tecnico piuttosto pesante, ma ora siamo qui, siamo tornati e come sempre abbiamo tanta bella musica e tanta voglia di fare casino. Quindi partiamo subito con la prima canzone e sicuramente vi piacerà, The Scraps, Radio Punk. Cambia frequenza finché sei in tempo, non volgere lo sguardo dove soffia il vento, pur confinati nella clandestinità, siamo l'ultimo spiraglio al mondo di libertà. Sei su radio, radio, radio, band, sei su radio. Avete passate bene le vacanze? Guarda, non ci crederete, ma noi siamo stati qua dentro allo spazio Anteprima a lavorare tutta l'estate per poter preparare le trasmissioni per voi. E dico anche per te che sei lì sul PC che stai guardando YouPorn, lascia perdere, cacchio, ascolta Radio Tassello. Cioè, anche te. Certe cose falle quando sei da solo. A parte gli scherzi, ragazzi, vorremmo chiedere scusa a Viva Magazine perché l'intervista fatta con loro purtroppo è andata persa. Comunque nel corso del palinsesto annuale sicuramente recupereremo facendogliene un'altra, anche perché loro sono molto disponibili, quindi penso che di problemi non ce ne siano. Per oggi parleremo con Dario, ciao Dario. Ciao Lele. Che ci illustrerà un po' l'evento passato, questi tre giorni di apertura di Spazio Anteprima, dove c'è stata tanta birra, dove ci sono stati tanti gruppi, dove il divertimento è stato assicurato. Dario, ma come è uscita questa idea? Cioè, cosa vi ha dato spunto? Ma allora, in realtà era un evento che doveva essere fatto in un giorno. Poi, parlando con Simone, l'idea è nata un po' con Simo, volevamo fare questo evento di un giorno, però gli ho detto, guarda, secondo me si potrebbe... Per tutti i nostri podcast ascoltatori, Simone Losa è il nostro presidente. Simone Losa, sì. E fa, wow, Simo, si potrebbe fare questo evento, così cosa, vedo che comunque voi siete già messi bene a livello di organizzazione. L'unica cosa, se vuoi, potremmo allargare la routine normale inserendo nuova birra, no? Sei tipi di birra nuova. Ragazzi, sei tipi di birra. Cioè, se voi non siete venuti, cosa cazzo vi siete persi? Cioè, fai conto che poi all'entrata... birre minchia importate, no? Ma poi, cioè, non so se tu te ne sei accorto, Dario, cioè, ma all'ingresso davano sia le ginocchiere che le gomitiere. Io ho visto spesso gente andare a casa così, eh. Caschetti, sì, cioè, sì, ho visto. Ero uno di quelli quando sono uscito. Lo so, me ne sono accorto. Comunque, Simo mi ha detto, guarda, penso non ci siano problemi, e ci siamo lasciati così. Quando ci siamo rincontrati, praticamente i giorni da uno erano diventati tre, perché poi Simo, con le sue conoscenze, tutto quello che c'è in ballo lui, è riuscito ad allargare questo evento non a uno ma a tre giorni. Non so come abbia fatto, non so con chi ha parlato, so solo che aveva trovato dei gruppi e quindi in sostanza noi ci è andato bene, ci siamo messi d'accordo con il Julius, che ringraziamo. Ma perché proprio il Julius Pub? Cioè, cosa ha legato questo evento al Julius Pub? Perché loro ci stanno dentro, io li conosco proprio, adesso ormai è un locale, comunque il Julius è un locale che c'è a Caronno, che fra l'altro frequento e so che ha dei diversi tipi di birra che non trovi da nessun'altra parte, a parte che lì. E quindi ho detto, ho collegato le due cose, poi loro fanno un macello di feste in giro, cioè sono proprio dello spirito giusto per fare queste cose. Allora ho detto, ma sì, proviamo. Infatti, da come è andato l'evento, penso sia nata una bella collaborazione. Ma tu ti sei divertito? Figa. Davvero? Sì, di brutto. Te ti sei anche... divertito, Lele? Porca miseria. Guarda, allora, io dico sempre, se non ti ricordi quello che è successo, vuol dire che ti sei divertito. Perfetto. E non sempre bene, eh? Comunque, ragazzi, stavo scherzando, eh. Mi raccomando, bevete sempre in maniera responsabile, ok? Beh, ma ascolta un po', Dario, in questo evento ci sono stati un casino di gruppi che hanno suonato, vero? Sì, è stata veramente una cosa bella e organizzata bene. Cioè, tipo, ti faccio un esempio, giovedì ci sono stati Lips, Off of the Sate, L'Odio, venerdì ci sono stati Just a Ride con The Taxi, sabato ci sono stati Wild Out, quindi parecchi gruppi. E dopo i gruppi ha messo sulla... DJ set. Sì, il DJ set. Tommy, e sì, prima invece dei gruppi cosa c'è stato? Prima dei gruppi un adesso... aperitivo. Ehi, allora, guarda, ti sto interrogando in questo momento, è l'insufficienza. No, guarda, signori, io uscivo dal lavoro tardi, arrivavo la sera. C'era la jam. Giusto per suonare. C'era la jam. Tutti gli artisti che volevano suonare insieme si riunivano e partivano da soli, facendo improvvisare. Bellissimo. No, veramente bello. Veramente bellissimo. Beh, ragazzi, con l'augurio di potervi ritrovare agli eventi di Spazio Anteprima, perché so che verrete, se no vi veniamo a prendere a casa, e questa vi posso garantire che è una minaccia, vero Dario? Verissimo. Cosa gli possiamo dire a sta gente? Venite, basta, perché qui si conosce della gente bella, c'è la bella musica e c'è un sacco di birra buona. Bella, bella. Ciao ragazzi, state salutando perché sono già finiti i provini per Cattivi Elementi. Cattivi? Tu lo conosci? No, mai visto. Ma scusa, guarda che probabilmente è sbagliato, perché no, Cattivi Elementi mi hanno detto che lo fanno qui, mi hanno dato il biglietto da visita. Ragazzo, è vero, anch'io ho una casa di Cnus a scaricare, fateci entrare, porca miseria. Bene, se non volete, siamo che cazzo, fateci entrare. Siamo nel delirio, no? Siamo nel delirio. E cos'è, delirio. Un'ora che suoniamo, e fateci aiuto! Entrare. We'll be right back. Beh, tutto sommato aveva ragione, ragazzi, perché anche qua a Spazio Anteprima ci sono i cattivi elementi. E ce li ho proprio qui. Ciao Dario. Ciao Lele. Ciao Vincent. Ciao Lele. Allora, parlatemi del vostro progetto. Basta, penso che abbia già detto tutto, ce ne possiamo anche andare, capito? Perché c'è Vincent. Tu che mi sembri una persona seria, spiegaci il vostro progetto. Ma il progetto comprende un programma che fa divertire e da quale prendere spunto, anche per chi ci segue. Vedi, lui è già una persona un po' più posata, riesce a ragionare. Tu invece, giusto, Dario, cosa diresti? Ma va, noi, allora, sarà secondo me pieno di personaggi strani che interromperanno, romperanno le palle a destra e a sinistra. Ma lo possiamo eliminare? No, comunque no, c'ha ragione Vincent. C'ha ragione Vincent, sarà un programma divertente, penso. Sì, io lo credo anch'io. L'importante è che non ci querelino, eh. Questa è la cosa che io vorrei che non ci fosse. Tranquillista, io faccio il serio. Bene, bene. Porca miseria, qui la situazione si fa veramente grave. E tu che sei nel mezzo, cosa farai? Il coglione, capito? Perché è la cosa che forse mi riesce meglio, capito? Si poteva dire anche il pirla, però poi dopo dico troppe parolacce e si arrabbia il mio regista. Infatti già mi sta guardando. E scattano le querele subito, perché ci vuole educazione. Bravo, bravo, ci vuole l'educazione. E che cazzo? Ecco, e non si dicono le parolacce, vero? Esatto. Oh, dobbiamo rimanere seri e sobri fino alla fine. Questa è però la mia parte, li devo tenere io. Della sobrietà? Esatto. Io non ci credo tanto però, eh. Io non sto più capendo niente, Lele. Voi volete mi fido di voi. Allergico, quindi... Hai capito? Porteremo vino, fiumi di vino a volontà. Sì, ma il problema è che beviamo noi ed è lui volo fuori. Com'è questa cosa? Capito? Cioè, spieghiamo. C'è già feeling, c'è già sincronia, c'è già io bevo, lui va fuori, lui cerca di fare serio. Però qua c'è qualcosa che non va, voglio bere anche io. Vabbè, dai, forse vino, se vino. Casse di vino, quelle faccio portare dalla Sardegna. Guarda, dalla Sardegna, ma tu di dove sei? Sei di Cagliari. Sassari. A Sassari dove ci sono i sassi? Dove ci sono i sassi a Terra Bianca. Porca troia. Ma ascolta, ma il vitello lo vuoi? No. L'agnello lo vuoi? Io sono l'unico sardo vegetariano, bevo solo i Knus e buoni. Porca troia. Mi nutro del luppolo, della birra, là, veramente. Tanto per dire, questo sarà lo standard. Il che io, Vincent, direi che è un po' preoccupante, forse, no? Non credi? Ma no, perché? Ma che son bravi. Che... Ma, ascolta, cioè, l'unica cosa che io ti voglio... Bravi, ma chi no? Che cosa cosa? Chi che cosa cosa chi che cosa cosa cosa? Chi cosa che... Chi che cosa, cosa chi, cosa che? Che cosa cosa, chi che cosa, chi, a chi, a chi, cosa, chi? Basta, quando è partito l'unica maniera è spegnerlo. Non è cattivo, è problematico da gestire, ma non cattivo. Mi piace questa altalenanza, capito? Di delirio e pacatezza. Tu metti proprio pacatezza, Vincent. Mi sento molto più calmo. Ecco. E allora? Mi sento molto più calmo a guardarti negli occhi. Ecco. Il nostro Buddha. Oh porca puttana, capito? La cosa è molto grave. Andiamo proprio bene, capito? Ma dunque, in questo programma cosa succede? Ci saranno personaggi? Di che cosa parli? Che cos'è? Cos'è? Sarà pieno di personaggi che sinceramente non lo so perché non ho ancora capito, ma qualcosa succederà. Perché svelare? Quando c'è la suspense che minchia ti si insinua tra i tuoi pensieri tutto il giorno, non ti fa capire ma cosa faranno. Cosa secondo faranno, me cosa se faranno, cosa chiedessi faranno, cosa faranno, cosa vuol faranno. Dire suspense, non sa cosa vuol dire. No, non chiederglielo perché poi rinizia ancora a sbasare. Potremmo cadere in un baratro. Tranquillo, di... lasciamo stare. È in preparazione. Lasciatemi stare. Ah, è sotto carica adesso. Sì. Un po' preoccupante. Signori, mi aspettano delle ruvide pastelle fatte a mano. Che si chiamano? Pizzocca rivaltellinesi. Ragazzi, sono due ore che stiamo registrando e sono due ore che ci spacca i maroni con questi pizzocchi. Ho fame! Portategli i pizzocchi! Andiamo a casa! Ho fame! E birra. E vino per Vincent. Intanto io ho perso il foglio perché prima dovevo già disannunciare il disco. Andiamo che non ho ancora disannunciato. Quindi, beh, ragazzi, abbiamo detto tutto, stiamo sfasando. Andiamo a casa. L'abbiamo fatto proprio perché il programma Cattivi Elementi sarà così. Cioè, sarà una cosa, strana, magari che in radio non si è ancora sentita. Quindi, di conseguenza, non ho voluto tenere il solito rigore, ma lasciarli andare a briglie sciolte. Avete visto cos'è successo? potete solo immaginare quello che potrà succedere nel programma. In realtà noi siamo buoni, giochiamo con le macchinine a casa. Vabbè, va. Ascoltati sta canzone, va. Baby Paolo. Grande Lele. Moscow too. In every town, some girls were sure pretty, but none of them compares to you. Don't have to worry. Anche per oggi siamo arrivati alla fine. Come avete potuto sentire, abbiamo iniziato ad introdurre delle novità quest'anno e ce ne saranno molte altre nel corso delle trasmissioni. Ve le presenteremo e andremo anche a fondo di queste cose. Voglio i pizzoccheri, io porca miseria, non ce la faccio più. Oh. I miei pizzoccheri, sto diventando matto. Dai, Dario, vieni, vieni che andiamo via. Lo porto via per che cazzo, io voglio i pizzoccheri. Che cosa tre vuoi? Ore che parlo, cosa vuoi? Ho fame, ho fame. Ma ho che fame, cosa vuoi? Pizzoccheroni belli. Anche con la fonduta che si. È la quarta prendi, volta che dico che cosa vuoi. Te cosa devi dire se io ti dico che cosa si sporchi tutto il pantalone, cazzo. Voglio il pizzocchero io. E la lasagna. Sono un amante della lasagna e del pizzocchero. Ragazzi, io non so più che cosa dire. Cioè, veramente, sono esaurito talmente tanto che non c'è. La barnella sopra che si squalda. Io vado a recuperare la camicia di forza. Sì, andiamo, va. Ragazzi, è stato un piacere. Alla prossima. You're still blowing through my mind. I'm the king, that my queen when you're not near me. A poet fumbling for a rhyme. You're the only one for me.